Il momento giusto è ora, ho un solo obiettivo. È una vita sola, non mi sono mai pentito, ma di una cosa sola, la scuola. Chiudo il negozio, scrivo, torno tra mezz'ora. Oh. Perso troppo tempo dietro a scemenze altrui, messo troppo in disparte negli angoli più bui. Ora il rap è più forte di me, ho una carriera in cui rappo come vuole lui. Crisi di adolescenza, crisi di astinenza, Dio riempimi di benza, mamma dammi la tua pazienza. E io lo so, dai, so che anche tu sai che i consigli che dai alla fine non li segui mai. E senza lei e senza sigarette sto nei guai, mentre cammino mi giro, so che tu non tornerai. E quante volte ho scritto pucciando la birra in lacrime per poter raccontare tutto ciò che non è facile. Oh oh, mi odi, mi amo, come Milano, come fai te, come fai te. Come paglia nel Sahara, questo è per chi si è sentito solo con un padre che non chiama, che non chiama. Perché è cresciuto veloce tra autobus e metro, per chi fa un passo avanti e due passi indietro. Chi come me al sedile posteriore pensa al futuro anteriore guardando oltre il vetro. Per chi rape nella merda trova l'unico fiore, la mosca in mezzo ai fiori trova l'unica merda. Decidi chi è